Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Ve li ricordate i tatuaggi coi trasferelli? Per qualche anno andarono di moda e comunque sono ancora in giro adesso. Prendevi una di queste etichette prestampate con su un disegnino, la bagnavi, la applicavi sulla pelle e una volta rimossa rimaneva solo il disegno, l'inchiostro. Durava quel che durava, insomma, ma era divertente. Ebbene, all'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, si sono ispirati ai vecchi tatuaggi temporanei per realizzare qualcosa di nuovo, dei tatuaggi elettronici. Ne parliamo con Francesco Greco, ricercatore del Center for Microbiorobotics dell'IIT, che insieme a Virgilio Mattioli ha messo a punto questa tecnologia. Buonasera Greco. Buonasera. Allora, senta, le chiedo come prima cosa che cosa servono, che cosa sono in pratica questi tatuaggi elettronici? In pratica si tratta di elettrodi stampati su un tatuaggio temporaneo. Sono degli elettrodi che servono a fare quello che normalmente tutti conoscono, ossia un elettrocardiogramma o un elettroencefalogramma. Hanno quindi la stessa funzione, registrare dei segnali elettrici sul nostro corpo. Sul nostro corpo. Ecco, quali sono i vantaggi rispetto appunto agli elettrodi tradizionali che tutti conosciamo, perché insomma un elettrocardiogramma l'abbiamo fatto tutti? Allora, innanzitutto, essendo ultrasottili, sono in grado di non avere degli artefatti di movimento, perché riescono a seguire benissimo tutti i movimenti dell'epidermide sottostante. Inoltre, essendo asciutti e non bagnati come i comuni elettrodi che impiegano un gel. Sì, che è fastidiosissimo quando te lo mettono addosso, sì, perché è freddo. Appunto, essendo asciutti, non hanno lo svantaggio di perdere, diciamo, funzionalità a causa dell'asciugatura, che normalmente negli elettrodi a gel avviene dopo circa 8 ore. Sì. Quindi se dobbiamo per esempio rilevare questi segnali su un atleta in movimento, ci sarà un segnale migliore perché non temono appunto il movimento, o se dobbiamo fare una registrazione molto lunga non si essiccano e quindi sono superiori, diciamo, da questo punto di vista. Addirittura so che state lavorando sull'utilizzo, poi non ci si pensa, ma per controllare con i segnali, con le contrazioni del muscolo, una mano robotica. Questa è una delle possibili applicazioni. Anche lì servono degli elettrodi che stanno a lungo sulla pelle, no? Esatto, abbiamo dimostrato appunto un controllo miografico, ossia attivato dai muscoli, di una protesi robotica, di una mano robotica. E in questo senso è pensabile l'utilizzo di questi elettrodi come degli elettrodi di usa e getta. Uno li indossa al mattino, per tutto il giorno fanno il loro dovere e poi la mattina dopo può rimpiazzarli. Con, ecco, come si tolgono? Si tolgono esattamente come un normale trasferello, ossia sfregando con un po' di acqua e sapone. Perfetto. E invece come si realizzano? Ecco, spiegateci un po' la tecnologia che avete messo a punto. Allora, la tecnologia si basa proprio su una carta per decalcomanie, si dice, ossia per fare i trasferelli, su cui noi stampiamo con una stampante a getto di inchiostro un polimero conduttivo. Ok, quindi quello che voi avete messo a punto è proprio questo polimero in buona sostanza. Sì, tutto il processo di ottimizzazione di questo polimero e poi il processo di stampa e di assemblaggio di questi tatuaggi insieme a delle connessioni che permettono di tirare fuori, diciamo, questo segnale e di connetterlo ai normali strumenti per la diagnosi, ad esempio. Ok, perfetto. E come si applicano sulla pelle? Come il tatuaggio temporaneo a questo punto, immagino. Sì, si bagna il retro, che è fatto di comunissima carta, con un po' d'acqua o con un panno bagnato e dopo alcuni secondi, esercitando una pressione sulla pelle, si può far scivolare via la carta che supportava il tatuaggio e il gioco è fatto. Benissimo, senta, avete ulteriori sviluppi in mente? Abbiamo degli sviluppi in atto, soprattutto dal punto di vista delle applicazioni, dunque dimostrare non solo l'elettromiografia ma anche, appunto, come dicevo, l'elettrocardiogramma o anche l'elettroencefalogramma. Certo, sperimentarlo nelle varie applicazioni. Nelle varie applicazioni in collaborazione con dei medici, fondamentalmente dei neurofisiologi. E inoltre il passo, diciamo, il sogno nostro su cui siamo già lavorando è di connettere il tatuaggio, che è un semplice elettrodo, a qualcosa di più complesso. Quindi qualcosa come elettronica stampabile, elettronica flessibile e, perché no, anche delle connessioni wireless che ci permettano di fare a meno dei cavi che tuttora dobbiamo utilizzare. Proprio dei vostri colleghi hanno messo appunto delle etichette stampabili, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa, lì si pensava alle bottiglie, come dire, sono, diciamo, tutti i campi di ricerca che convergono e possono essere messi assieme, per cui avremo l'elettrodo che non ha più bisogno di essere attaccato a un filo, ma trasmetterà forse un domani, se ci riuscite, insomma, in wireless queste informazioni, esatto, mediche. E questo potrebbe essere utile non solo nel campo della clinica, ma anche in applicazioni come lo sport, per cui si potrebbe ipotizzare di connettere le informazioni che arrivano dal nostro corpo direttamente sul proprio smartphone, ad esempio. State pensando anche degli sviluppi, diciamo, di tipo imprenditoriale? Sì, siamo in contatto con diverse aziende, diversi investitori che hanno interesse a, okay, appunto, a investire in questa tecnologia. Bene, insomma, in bocca al lupo allora. Crepi. Grazie Francesco Greco. Grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.